Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. È il 24 di luglio del 2012, buongiorno a tutti. Voi siete qui, o meglio, il meglio di voi siete qui, in onda fino a fine mese, cioè in realtà fino a fine settimana. Per tutto il mese di luglio sono andati in onda tutti i giorni, non uno, una, ma due storie di quelle che sono arrivate durante tutta la stagione scorsa. La cosa che vi chiedo, la cosa per cui in realtà vi ringrazio, perché continuano ad arrivare storie, e la cosa che vi chiedo è di continuare a scriverle, di inviarle a voi siete qui, @radi24.it. Noi piano piano durante tutta l'estate ce le leggiamo, le mettiamo insieme e l'anno prossimo ci facciamo un'altra infilata di stagione con storie che avete scritto direttamente voi. Vi ricordo, basta una pagina. In una pagina è il racconto di un episodio della vostra vita. Per tutti quelli che invece ancora continuano a scrivere alla redazione, che vogliono sapere qualcosa di più del programma, perché magari ci sono capitati così per caso in un caldo pomeriggio di luglio, vi ricordo che durante l'anno abbiamo pubblicato un ebook, cioè un libro elettronico completamente gratuito, in cui sono contenute 100 storie di quelle che abbiamo mandate in onda. Se volete scaricarvelo, potete farlo, continuare a farlo gratuitamente dalla pagina di Voi Siete Qui sul sito di Radio 24. Guardate, se ci andate ci trovate l'ebook, appunto, come vi dicevo, per cui per leggerlo non è un PDF, per cui serve tipo un EPUB, comunque sono tutti software scaricabili gratuitamente. Sulla nostra pagina trovate anche i podcast, che magari non vi potete scaricare perché scaricabili sono solo gli ultimi 5, ma vi potete ascoltare in streaming se avete una connessione flat, e immagino che sia così, tutte le puntate di tutto l'arco dell'anno dalla pagina di Voi Siete Qui oppure dalla pagina podcast sul sito di Radio 24. Lì trovate anche comunque tutti i riferimenti al profilo Facebook del programma, che è Voi Siete Qui Radio 24, e anche al profilo Twitter. Continuiamo a raccontare, a riproporre le storie. Oggi 24 di luglio vi racconto una storia che è ambientata a Barcellona, anche se parte da qui, parte dall'Italia, ed è la storia di un padre che si accorge di essere una persona un pochettino migliore grazie al figlio, grazie al fatto che il figlio l'ha preso, oddio non l'ha preso, il figlio ha preso ed se n'è andato, e lui ha deciso di prendere, andare a seguire il figlio, andare a trovarlo in una città, non una città qualunque, in una città che è Barcellona, ed è una sorta di riscoperta anche in età adulta da parte del padre, primo del rapporto col figlio e secondo del fatto che non è mai tardi per prendere, andare, conoscere posti nuovi e conoscere cose nuove di sé. Questo racconto si intitola Essere padre a Barcellona. La storia che voglio raccontare ha per protagonisti me e mio figlio e si svolge in tre momenti diversi della nostra vita. Nel primo lui è davanti a me, seduto e sorridente, in un ristorante pieno di foto nel Raval di Barcellona. È agosto, è caldo e appiccicaticcio come un mezzogiorno in Spagna. Lui porta una maglietta a righe e gli occhiali che indossa quando non porta le lenti a contatto gli fanno una faccia buffa. Mattia è il mio primo figlio. Sono passati circa 5 anni da quando è andato via di casa, dalla Brianza laboriosa, con destinazione Barcellona. Mi aveva rassicurato. Aveva detto che avrebbe fatto una bella esperienza conoscendo tanta gente e poi sarebbe tornato per lavorare e guadagnare bene. Era la sua voglia di vivere, la sua gioventù e la gioia che parlavano per lui. Con coraggio, trattenendo la sorpresa e anche un po' di rabbia, gli ho detto sorridente: vai, vai, stai tranquillo, ci sentiremo spesso, sarà una bella esperienza. Mentivo. Io ti avrei voluto dire: ma cosa fai? Ma non scherzare, ma dove vai? Lasci tutto adesso che lavori con me. Andiamo bene. Non ti interessano le mie fatiche. Ecco, io tutto questo lo ammetto, l'ho pensato. E tu, con un'indifferenza che non mi aspettavo, sei andato via. Il secondo pezzo di questa storia invece parla di me qualche anno dopo. Sono un artigiano. Non mi sono mai allontanato molto da casa per via del lavoro e della famiglia. E se devo andare a Milano, uso il navigatore. La cosa che ho notato è che c'è in giro un sacco di gente che è cordiale, che ha voglia di parlare, non fai fatica a socializzare, a attaccare bottone, tra virgolette, così. È bello andare in giro, ecco, questa è la cosa che ho notato io. Non ho mai voluto, forse per pigrizia, spostarmi nemmeno con la mente. Però adesso, grazie a te, giro Barcellona in motorino, parlo in spagnolo, quel tanto che basta per farmi capire. Sembro un cittadino del mondo. Mi vanto di conoscere tutta la città. Do consigli ai turisti per non farsi fregare. Perché è quasi la mia città, questa. Tante sono le volte che sono venuto. Vado in spiaggia, conosco i vicini, parlo di calcio e mi sta antipatico Messi. L'ultimo capitolo della storia vede mio figlio che mi sta chiedendo chi sono, come ho fatto a cambiare così tanto. E come ero da ragazzo, come era mio nonno, cosa diceva, come vivevano allora. E allora io scavo tra i miei ricordi e cerco di portarli a galla. I suoi racconti della Grande Guerra. Mi ritrovo bambino negli occhi di mio figlio, incantato, che ascolto. Figlio mio, io te lo devo confessare. Con mio padre non sono mai stato così, come siamo ora, io e te, di fronte da adulti in un ristorante di Barcellona. Di ricordi di mio padre ne ho un po' pochi, ecco questo, perché ero troppo piccolo. Che poi dopo quando arrivi là, ti trovi in una situazione con tanti ragazzi giovani, gli amici per esempio di mio figlio, così cosa, e non trovi nessuno dei loro genitori. Cioè io dicevo, io, porca miseria, a me che mi è mancato così tanto mio padre. Possibile che quei ragazzi che sono qua, i loro genitori che sono vivi, non ci sono mai? Mio padre è morto quando avevo 19 anni e all'epoca non si parlava molto. Adesso ne ho 53, sono anche più vecchio di lui. E ora ci sono io che piango e tu che ti stupisci. E poi le altre persone intorno, la cameriera carina, grandi occhi, vestita di scuro, forse sudamericana. Mi guarda e mi chiede se tengo un problema. Io la guardo e le rispondo, no, gracias, sono solo felice. This is the first day of my life. Swear I was born right in the doorway. I went out in the rain, suddenly everything changed. They're spreading blankets on the beach. Yours is the first face that I saw. I think I was blind before I met you. And I don't know where I am, I don't know where I've been, but I know where I want to go. And so I thought I'd let you know. Yeah, these things take forever, I especially am slow. But I realized that I need you, and I wondered if I could come home. Remember the time you drove all night just to meet me in the morning. And I thought it was strange, you said everything changed. You felt as if you just woke up. And you said, this is the first day of my life. I'm glad I didn't die before I met you. But now I don't care, I could go anywhere with you, and I'd probably be happy. So if you wanna be with me, with these things there's no telling, we just have to wait and see. But I'd rather be working for a paycheck than waiting to win the lottery. Besides, maybe this time is different. I mean, I really think you like me. Anche mio papà non è mai stato un grande viaggiatore e io un po' preso da lui. Però mi piace l'idea di qualcuno che conosce il mondo con gli occhi di chi ama. E la storia di Gabriele mi ha colpito molto, mi ha fatto anche pensare, cioè mi ha fatto pensare che ci sono dei momenti nella vita, ovviamente, in cui si è genitori e figli nello stesso momento. E in quelle situazioni sarebbe impossibile separare un ruolo dall'altro. A me non è ancora capitato, però non vi nego di aver pensato a come sarei come padre qualche volta. E nello stesso tempo non nego di aver criticato qualche volta il mio, ma vabbè, fa parte dell'essere umano, credo, immaginarsi il futuro e fare i conti col passato. E ed è un po' quello che succede in un film che ho visto di recente. Mi è venuto in mente quando ho letto questa storia. Il film si chiama History of Violence, è un film di David Cronenberg, è di qualche anno fa. Guardatevelo se vi capita, perché ne vale la pena. Non vi dirò ovviamente la trama del film, però c'è un tema che appare sin da subito e che non scompare più, ed è quello di una persona per bene, di un padre che si trova a dover difendere la sua famiglia e quindi si trova a dover interpretare un ruolo che non è il suo di natura. E mi ha fatto pensare, perché c'è una cosa che io non avevo mai veramente messo a fuoco, ed è proprio quello che anche i padri e le madri in fondo sono delle persone. E non ci avevo mai pensato, perché i miei genitori sono sempre stati i miei genitori e basta. Però non so quando, ma un giorno mi è venuto in mente che, ad esempio, mia madre avrebbe potuto avere anche voglia di mangiare qualcosa di diverso da quello che ci cucinava tutti i giorni, no? E quindi mangiava anche lei, no? Che era cibo sano e nutriente, ovviamente. O che potesse avere voglia di andare a farsi, che so, un viaggio con le amiche ogni tanto. Che tra l'altro l'idea che mia madre avesse delle amiche e che potesse divertirsi e preferire passare del tempo con loro invece che con me mi è sempre sembrata una follia quando ero piccolo. E invece no. Invece forse mia madre non si faceva vedere da me, ma quando io ero a letto, probabilmente lei leggeva dei libri che io non potevo leggere. O magari faceva con mio padre cose che non potevo vedere e che non voglio immaginare. O ascoltava la radio o con lo stereo della musica che non erano le solite canzoni dello Zecchino d'Oro che invece ascoltava con me. O magari beveva un bicchierino di amaro. O leggeva il giornale e imprecava sulla situazione politica italiana, ad esempio, che poi è un po' quello che fa ancora adesso. Però, in realtà, a pensarci bene, io me lo ricordo quando mi sono accorto che quei due, in particolar modo mio padre, non erano solo i miei genitori. Erano due persone normali. Avevo 12 anni, circa. Eravamo in giro in macchina per Novara. Insomma, a un certo punto succede che una macchina bianca, anche abbastanza rumorosa davanti a noi, ha inchiodato e mio papà ha dovuto fare un piccolo miracolo al volante per evitarla. Ora, mio papà è un tipo tranquillo, ma non so perché l'automobile tira fuori il peggio da tutti noi. È una cosa che si capisce solo dopo aver preso la patente, mai prima. Insomma, probabilmente per l'adrenalina o lo spavento, mio padre ha fatto il tipico gesto del braccio che si alza e si rovescia dietro le spalle, mandando l'altra persona a fare là, proprio là, esattamente là. Il tizio sulla macchina bianca però non l'ha presa bene. È ripartito, ci ha superato e si è piazzato proprio davanti alla nostra auto, bloccandola. Mia madre subito ha detto a mio padre di non scendere, lui invece ha tirato il freno a mano ed è saltato giù, sempre per la regola del peggio di noi in macchina. Il tizio dell'auto bianca era piccolo e pelato. Aveva addosso, avete presente quei montoni marroni, quelli col pelo giallo? Senza pensarci un attimo, ha aperto il suo baule e ha tirato fuori un bastone. E ha cominciato a girarlo nell'aria. Io non vedevo mio padre in faccia, lui era di spalle. Ma non è stato necessario. Il modo in cui si è bloccato immediatamente, con le mani a mezz'aria, la testa immobile e le spalle, soprattutto le spalle, era come se fosse diventata una statua. Mia madre a quel punto è scesa, ha urlato qualcosa, mio padre non ha detto niente, è risalito in auto, ha fatto retromarcia e siamo andati via da lì, e da quel pazzo con l'auto bianca e il bastone in mano. E ricordo che ci sono stati 5 minuti di silenzio, ma silenzio puro in auto. Si sentiva il motore che saliva e scendeva di giri, e il pavé che rullava sotto le ruote, nient'altro. Mio padre aveva avuto paura. E non era mai successo, o almeno io non me ne ero mai accorto. Però quel giorno lì aveva avuto paura, per sé e per noi. Niente, noi siamo andati al supermercato, abbiamo fatto la spesa e non se n'è più parlato. Ma ormai era successo. Avevo scoperto la sua normalità e anche un pezzo della sua intimità. È stato scioccante, allora, ma è stato anche bello. Non ha levato niente al suo essere padre, ha solo aggiunto qualcosa al suo essere una persona. È già arrivata una foto che è ovviamente magnifica, ma non ci vuole tanto ad immaginarlo. Sul profilo Facebook del programma Matteo Caccia Io Sono Qui l'ha mandata Fioravante Scognamiglio, lo dico perché poi la didascalia della foto che vi prego di mandare è la prima comunione di tutti gli Scognamiglio. Ve la racconto più tardi la foto, perché è magnifica, potete immaginarla in bianco e nero, sono in 5 e c'è dietro una macchina strana. 349-238-6666. Innanzitutto utensile se sostantivo, utensile se aggettivo. Quindi utensile in quel caso, non mi ricordo più, Paolino, utensile, grazie Margherita. Raul mi scrive: io ho sempre pensato che mio padre avesse sempre ragione in tutto, mi sbagliavo. Raul da Mantova. E poi ancora: quando morì il padre di mio cugino, a me carissimo come fosse un secondo padre, guardando mio padre mi resi conto che anche lui era una persona normale e mortale. Qualcosa da lì dopo è cambiata. 349 238 6666. Però andiamo, non credo a Barcellona, credo andiamo in Brianza probabilmente a sentire Gabriele. Pronto Gabriele? Pronto, ciao Matteo. Ciao, come stai? Bene, bene, grazie. Sei a Meda? Sì, sono a Meda, sì. Ma come leggi tu le cose sono, sembrano vere, ecco. Beh, ma sembra vero, però la storia me l'hai mandata tu, spero che sia vera, certo, Gabriele. Certo, certo, perché io mi sentivo e non pensavo che era così, ecco, tutto qui. Senti, sei a Meda, sei al lavoro? Sì, sono al lavoro, sono fuori in strada, perché da me c'è un rumore incredibile. Cosa fai esattamente? Sono un verniciatore di mobili, quindi c'è tutto un rumore di sottofondo. Ma mobili industriali? Cioè, mobili in stile, facciamo quelle cose lì praticamente. Ma e hai sempre fatto questo? Cioè, com'è che uno decide di diventare verniciatore di mobili? Purtroppo perché i padri ti dicono: c'è un bel lavoro da qualche parte, se vuoi andare. Ero molto giovane e sono andato là. E da quanto lo fai? Da tanto, dopo le medie praticamente avevo cominciato subito, allora si cominciava presto. Ma è un'azienda tua, giusto? Sì, adesso è un laboratorio mio, sì. E in quanti siete? In 7-8, non è piccola e non è grande. Come va in questo periodo? Male, bene? Insomma, non va bene, non va male, quello che vogliono lo vogliono subito e allora di conseguenza... Ma c'è un calo forte, Gabriele, anche lì oppure? Ma sì, un pochettino sì, un po' si sente. Ecco. Ma tipo 20-30%? Sì, 20-30%, prima non c'era mai in giro nessuno che chiedeva di lavorare, adesso sono in giro a cercare il lavoro. Cioè che proprio bussano alla porta? Sì, bussano alla porta e dicono: mi date un po' di lavoro. Senti, Mattia come sta? Sta bene, sta ma bene, è ancora a Barcellona? Sì, sì, lui è ancora là. Lui è perito agrario, quindi adesso lavora come perito agrario da qualche parte, esattamente. Ma fa il perito agrario a Barcellona? Sì, adesso sì, però ha fatto di tutto praticamente, ha fatto il cameriere, ha lavorato in spiaggia, insomma. Senti, quanti anni ha lui, me lo ricordi? Lui ha 26 anni. Ha 26 anni. Lui, come dire, gli hai mandato questo racconto o gliel'hai parlato? Sentirà questa puntata, la sta sentendo? Sì, ho parlato, però sinceramente un po' mi vergognavo perché dire le cose mie mi sembrava un po'... Però penso che magari dopo... Siccome che ti ascolto da questa primavera e sì, la tua trasmissione mi ha incantato e allora ho detto: no, ma qualcosa devo scrivere. Senti, ti ringrazio. Senti, mi dici... siamo già un po' in ritardo, però devo chiedertela sta cosa. Questa cosa della vergogna che si ha nel parlare ai propri figli. Sì, no, questo è vero. Cioè, c'è una forma di imbarazzo nel parlare. È una forma di imbarazzo perché non si è abituati. Bisognerebbe parlare di più, cercare di tirar fuori anche le cose che magari non... Le cose più profonde, ecco questo. Ma questa è una cosa che tu hai semplicemente cominciato a fare adesso e quindi è stato più difficile perché sì, prima non l'ho cominciato a fare adesso quando mi sono accorto dei ragazzi che ci sono in giro per il mondo, io penso, che sono in giro e mi rendo conto di quelli che sono qua. La cosa che io adesso guardo con un altro occhio sono quelli, i ragazzi che sono qui, che arrivano magari come extracomunitari da un altro paese lontano. E allora a questo punto mi viene spontaneo di pensare ai loro genitori, quanto soffrono che ce li hanno lontani. Senti, perché ti sei antipatico Messi? No, perché quest'estate ero in spiaggia e allora c'era la partita a Barcellona-Real Madrid e mi sono accorto che facevo il tifo per il Barcellona. Ok. Sono diventato proprio scemo completamente. Gabriele, ti ringrazio davvero tanto per il tuo racconto e la telefonata. Saluta. Grazie Mattia. In questa seconda parte di programma di martedì 24 di luglio voglio raccontarvi forse la prima storia... puramente divertente che è arrivata. Devo dire che le storie divertenti non sono state tantissime. È più facile, non so, immagino, mi è parso dalla lettura dei racconti arrivati durante tutto l'anno, forse è più facile immaginarsi in momenti più complicati o momenti di riflessione e raccontarli. Massimo invece ha preso un episodio molto divertente della sua vita legato al fatto che ha i capelli rossi e a Roma, dove lui vive, probabilmente è abbastanza inconsueto trovare gente con i capelli rossi, e il fatto che i capelli rossi l'abbiano sempre fatto assomigliare a uno straniero, nella fattispecie a un irlandese. Questa storia è stata una delle storie che ho raccontato in diretta e dal vivo qui dalla Sala Collina di Radio 24 per il live di Voi Siete Qui il 19 giugno scorso. Si intitola Un irlandese a Roma. Andate a rivedervelo anche sul canale di YouTube del programma, perché si vede Massimo, si vede il video di Massimo. Massimo ha una bella faccia e soprattutto